C'è qui una ragazzina che ha portato qualcosa per lei, signore. Il dottore ha detto che potevo farla passare. Un attimo dopo, Pollyanna si trovava da sola davanti a un uomo steso supino in un grande letto, ma in preda alla collera. Non avevo dato un ordine preciso? Incominciò a dire una voce irata. Ah, sei tu, riprese con malagrazia mentre la bambina si avvicinava al letto. Sì, signore, disse Pollyanna con un bel sorriso. Sono davvero contenta che mi abbiano permesso di venire a trovarla. Vede, appena sono arrivata, la signora si è preoccupata soprattutto di ricevere la gelatina. E ho temuto molto che non mi facesse entrare. Poi è arrivato il dottore che mi ha detto di venire. Non è stato carino a permettermi di fare visita. Suo malgrado, l'uomo accennò un sorriso, ma tutto quello che uscì dalla sua bocca fu. Le ho portato del pollo in gelatina, continuò Pollyanna. Spero che le piaccia. La voce della bambina tradiva la speranza di una risposta affermativa. No, io non lo mangio mai. Il sorriso era scomparso e il viso del malato manteneva la solita espressione burbera. Per qualche istante Pollyanna non disse nulla, lasciando trasparire la propria delusione, ma subito si riprese non appena ebbe posato il contenitore con la gelatina. Se non lo mangia mai, allora non può sapere se le piace o no. Penso che dopo tutto sono contenta che non sappia se le piace, perché se lo sapesse, va bene, quello che so è che sono qua steso in un letto con buona probabilità di restarci fino al giorno del giudizio, penso. Pollyanna lo guardò colpita. Oh no, non ci resterà fino al giorno del giudizio, quando l'arcangelo Gabriele suonerà la sua tromba, a meno che non arrivi prima di quello che pensiamo. Oh, naturalmente so che la Bibbia dice che può arrivare prima di quanto pensiamo, ma io non ci credo, cioè io credo alle parole della Bibbia, quello che intendo è che non credo che sia già il momento e... John Pendleton scoppiò in una fragorosa risata. L'infermiere che stava entrando in quel momento si ritrasse di colpo, senza farsi udire. Aveva l'aria di un cuoco che richiude immediatamente il forno per timore che un soffio di aria possa rovinare il dolce. Non stai facendo un po' di confusione? Chiese il signor Pendleton. La ragazzina rise di cuore. Può darsi, ma quello che voglio dire è che le gambe non durano molto, quelle rotte, ovvio, mentre quelle degli invalidi permanenti come la signora Snow, per esempio, restano sempre uguali, quindi le sue non saranno rotte fino al giorno del giudizio, proprio per niente. Credo che dovrebbe essere contento di questo. Oh, certo, disse l'uomo cupo. Senza contare che se ne è rotta una sola, può proprio essere contento che non le abbia rotte tutte e due, disse Pollyanna, che si stava lasciando trasportare un po' troppo dalla sua opera di convincimento. Oh, ma davvero, pensa che fortuna, sbottò il signor Pendleton. Se consideriamo la cosa dal tuo punto di vista, penso che dovrei rallegrarmi di non essere un millepiedi, avrei potuto romperne molte di più. Pollyanna ridacchiò divertita. L'idea le sembrò azzeccata. Proprio così, in quel caso sarebbe stato ancora più sfortunato. So cos'è un millepiedi, ha un'infinità di gambe e lei può davvero essere contento. Ma certo, le interruppe il signor Pendleton seccamente e tutta l'abituale asprezza gli era ritornata nella voce. E posso essere contento anche per tutto il resto, immagino, per il dottore, per l'infermiere, per quella brava donna che sta in cucina. E perché no? Provi a pensare a come starebbe se non fossero qui con lei. Chi? Io? Disse non più tanto sicuro. Sì, pensi soltanto a come sarebbe se loro non ci fossero e dovesse starsene inchiodato a letto senza nessuno ad assisterla. Oh, come se questo non fosse al centro di tutta la questione, rispose il signor Pendleton. Perché io sono proprio inchiodato a letto e tu vorresti che io dichiarassi di essere contento perché c'è una pazza che mette tutta la casa a soqquadro con la scusa di fare ordine e un tizio che li incoraggia e poi dice che questo significa curarmi? Per non parlare del dottore, che dà manforte a entrambi, mentre poi per giunta si aspettano che io li paghi tutti quanti. Pollyanna fece un cenno di comprensione. Eh sì, capisco, è un vero peccato per il denaro, specie dal momento che ha continuato a risparmiare. Dal momento che cosa? Beh, dal momento che ne ha risparmiato tanto, mangiando sempre fagioli e polpette di pesce. Voglio dire, le piacciono davvero i fagioli o preferisce il tacchino ed è solo una questione di qualche centesimo? Senti un po', piccola, di che diavolo stai parlando? Pollyanna non si scompose, ma del denaro che lei nega a se stesso per risparmiarlo a favore dei diseredati, vede, l'ho scoperto io. Ma sì, è così che ho scoperto che lei di dentro non è burbero. Nancy me l'ha detto. Il volto dell'uomo si rabuiò. Nancy ti ha detto che io facevo economia per i... Beh, si può sapere chi è questa Nancy? È la nostra Nancy, la ragazza che lavora per zia Polly. Zia Polly? E chi è zia Polly? La signorina Polly Harrington, io vivo con lei. L'uomo fece un movimento brusco. Miss Polly Harrington? Disse. Sì, sono sua nipote. Mi ha presa con sé per allevarmi al posto di mia madre, farfugliò Pollyanna piano, che era sua sorella, e dopo che papà è andato a raggiungerla in cielo con il resto della famiglia non era rimasto nessuno se non le signore dell'assistenza che si occupasse di me, così zia Polly mi ha presa con sé. L'uomo non rispose. Il suo volto, adagiato ora sul guanciale, appariva molto pallido, tanto che Pollyanna ne fu spaventata. La bambina si alzò dalla sedia con fare incerto. Penso che forse farei meglio ad andarmene, disse. Spero che gradirà la gelatina. L'uomo voltò il capo di scatto e aprì gli occhi. C'era nei suoi occhi scuri una strana espressione di nostalgia che stupì Pollyanna. E così tu saresti la nipote della signorina Polly Harrington, disse piano. Sì, signore. Lo sguardo del signor Pendleton continuava a indugiare sul suo volto finché Pollyanna, imbarazzata, mormorò: Suppongo che la conosca. Le labbra di John Pendleton fecero una strana smorfia. Oh, sì, la conosco. Esitò, quindi proseguì, mantenendo quella strana espressione. Ma non è stata, non può essere stata la signorina Polly Harrington a mandare la gelatina, disse piano. Pollyanna si mostrò abbattuta. No, no, signore, non è stata lei. Mi aveva detto, anzi, che non dovevo assolutamente farle pensare una cosa simile, ma io... È quello che pensavo, disse l'uomo dopo un po', volgendo il capo, mentre Pollyanna, ancora più sconcertata, lasciava la stanza in punta di piedi. Davanti alla porta d'ingresso trovò il dottore che l'aspettava nel suo calessino. L'infermiera era fermo sui gradini. Bene, Pollyanna, posso avere il piacere di accompagnarla a casa? Chiese il dottore sorridendo. Ero già in strada qualche minuto fa quando ho pensato che avrei potuto aspettarti. Grazie, dottor Chilton, sono contenta che l'abbia fatto. Adoro andare in calesse, disse Pollyanna prendendo la mano del dottore che gliela stava porgendo per aiutarla a salire. Veramente? Domandò il dottore sorridendo e accennando con il capo un saluto al giovane che stava davanti all'ingresso di casa. Da quello che mi ha dato a giudicare, ci sono moltissime cose che ti piace fare, aggiunse mentre il calesse si allontanava spedito. Pollyanna rise, ma non saprei, può darsi, ammise. Amo tutto ciò che dà la sensazione di essere vivi. E naturalmente non mi piacciono tante altre cose, come per esempio cucire, leggere ad alta voce e cose del genere, proprio perché non aiutano a sentirsi vivi. Non aiutano? E a cosa servono allora? Zia Polly dice che insegnano a vivere, sospirò Pollyanna con un'espressione rassegnata. Il dottore sorrideva in modo un po' strano ora. Dice così? Beh, me l'immaginavo che avrebbe detto qualcosa del genere. Sì, confermò Pollyanna, ma io non la penso in quel modo. Non credo che si debba imparare come si fa a vivere, almeno per me non è stato così. Il dottore fece un profondo sospiro. Credo, piccola mia, che qualcuno invece sia costretto a farlo, disse, e poi restò in silenzio per un po'. Pollyanna, lanciandogli qualche rapida occhiata, provò una certa compassione per quell'uomo. Aveva un'aria così triste e in cuor suo desiderava poter fare qualcosa per lui. Fu quel sentimento che la spinse a dire timidamente: Dottor Chilton, sono proprio convinta che fare il medico sia la cosa più bella che ci sia. Il dottore la guardò sorpreso. Più bella? Ma quando uno è costretto a vedere tante sofferenze dovunque vada? Chiese amareggiato. Pollyanna sentì. Capisco, ma lei aiuta chi soffre, quindi non può non esserne contento. Gli occhi del dottore si riempirono di lacrime. La sua era una vita particolarmente solitaria. Non aveva moglie e nemmeno una vera casa, ma due stanze in affitto dove riceveva anche i pazienti. Però amava moltissimo la sua professione. E guardando ora gli occhi luminosi di Pollyanna, fu come se una mano piena d'affetto si fosse posata sul suo cuore. Da quel momento seppe che non ci sarebbe stata più una pesante giornata di lavoro né una lunga notte al capezzale di un malato senza il conforto e l'incoraggiamento di quegli occhi limpidi. Che Dio ti benedica, bambina mia, disse commosso. Poi, con quel sorriso che i suoi pazienti amavano e conoscevano tanto bene, aggiunse: Penso, dopo tutto, che non sia soltanto l'ammalato ad aver bisogno di quel tonico di quando in quando, ma anche il medico. A quelle parole rimase un po' perplessa Pollyanna, fino a quando uno scoiattolo che attraversò la strada a gran velocità non la distrasse da quel pensiero. Ho fatto una bellissima corsa in calesse con il dottore, annunciò Pollyanna entrando in casa. È veramente gentile, Nancy. Davvero? Sì, e gli ho detto anche che pensavo che il suo lavoro fosse il più bello del mondo. Cosa? Stare sempre tra gente che è ammalato o crede di esserlo, che è ancora peggio? Il volto di Nancy esprimeva il suo totale scetticismo. Ma Pollyanna non ci fece caso. Sì, è quello che ha detto anche lui, ma secondo me c'è un modo per essere felici anche in quelle condizioni. Indovina! Nancy cercò di riflettere. Ormai riusciva nel gioco della contentezza con un discreto successo e poi le piaceva risolvere gli enigmi, come spesso definiva certe strane domande di Pollyanna. Ho trovato, è proprio il contrario di ciò che ha detto la signora Snow. Il contrario? Chiese Pollyanna perplessa. Non le hai detto che poteva essere contenta perché molta gente non era malata come lei? Sì, ammise Pollyanna. Allora il dottore può essere contento di non essere come i suoi malati, concluse Nancy con un'aria di trionfo. Pollyanna si mostrò un po' disorientata. Ma sì, ammise, questo è certo un modo, ma non è quello che ho trovato io, e in un certo senso non mi convince troppo. Non è che lui debba essere contento che gli altri siano ammalati al suo posto, ma certe volte. Nancy fa il gioco in un modo un po' strano, disse sospirando mentre entrava in casa. Pollyanna trovò la zia seduta in salotto. Chi era quell'uomo che è entrato in giardino, Pollyanna? Chiese la zia seria. Ma zia, era il dottor Chilton, non lo conosci? Il dottor Chilton? E che cosa è venuto a fare qui? Mi ha accompagnata a casa, ho dato la gelatina al signor Pendleton e. La signorina Polly sollevò la testa di scatto. Pollyanna non avrà pensato che gliela mandavo io per caso. Oh no, zia Polly, gliel'ho detto che non eri stata tu. La signorina Polly arrossì. Gli hai detto che non ero stata io? Pollyanna strabuzzò gli occhi di fronte alla reazione della zia. Ma zia Polly, me l'avevi detto tu? La signorina Polly sospirò. Ti avevo detto, Pollyanna, che non doveva pensare che fossi io a mandarla. Ti ho raccomandato di stare attenta che non lo pensasse. Ciò è molto diverso dal dirgli pari pari che non ero stata io a mandarla. Detto questo, si alzò adirata e lasciò la stanza. Santo cielo, non ci vedo nessuna differenza, sospirò Pollyanna mentre andava ad appendere il cappello proprio al piccolo attaccapanni dove zia Polly aveva disposto che dovesse essere appeso. Capitolo 16. Una rosa rossa per zia Polly. Fu in un giorno di pioggia, circa dopo una settimana dalla visita di Pollyanna al signor Pendleton, che la signorina Polly si fece condurre da Timothy a una riunione del comitato delle signore dell'assistenza. Quando fu di ritorno verso le 3, aveva le guance arrossate e i capelli scomposti dal vento erano rigonfi e ondulati nei punti in cui le forcine si erano allentate. Pollyanna non aveva mai visto la zia con quel grazioso aspetto. Oh, zia Polly, ne hai anche tu! Gridò felice ballandole davanti mentre la zia entrava nella stanza. Oh, che cosa? Sei una bambina impossibile, Pollyanna. Ma Pollyanna continuava a saltellarle intorno. Non mi sono mai accorta che ne avevi. Come si fa ad averne senza che si veda? Pensi che avrei potuto accorgermene? Pollyanna, che cos'è tutta questa storia? Chiese zia Polly, togliendosi in fretta il cappellino e cercando di riassettarsi i capelli in disordine. No, no, zia Polly, la voce allegra di Pollyanna si fece supplichevole. Lascia i tuoi bei capelli come sono, non lisciarli. È di loro che sto parlando, dei tuoi bei riccioli neri. Oh, zia Polly, sono bellissimi. Sciocchezze. Piuttosto mi vuoi dire che cosa ti è saltato in testa di andare l'altro giorno dalle signore dell'assistenza a parlare di quel ragazzo mendicante? Ma non è stata una sciocchezza, si accalorò Pollyanna rispondendo soltanto alla prima parte del discorso della zia. Tu non hai idea di quanto sei carina con i capelli mossi in quel modo. Oh, zia Polly, mi piacerebbe tanto sistemarti i capelli come ho fatto con la signora Snow e infilarci anche un fiore come ho fatto con lei. Oh, mi piacerebbe tanto vederti così e poi tu saresti molto più carina della signora Snow. Pollyanna, la voce della signorina Polly era molto dura, tanto più dura perché le parole della bambina le avevano provocato un sussulto di gioia. Chi si era mai preoccupato prima di com'era il suo aspetto? O di come erano tenuti i suoi capelli, chi prima di allora aveva avuto piacere nel vederla carina. Pollyanna, non hai risposto alla mia domanda, perché sei andata dalle signore con quell'assurda richiesta? Sì, capisco, zia, ma vedi, Io non credevo che fosse assurdo finché non ho capito che preferivano fare bella figura con il loro rapporto piuttosto che con Jimmy Bean. Così ho scritto alle mie signore dell'assistenza, in quanto Jimmy si trova a una grande distanza da loro e per loro poteva essere come un bambino abbandonato dell'India. Come zia Polly, ero la tua piccola bambina dell'India io? E zia Polly, mi lascerai sistemarti i capelli, vero? La signorina Polly si portò una mano alla gola. La solita sensazione di impotenza si stava di nuovo impossessando di lei, lo sentiva. Ma Pollyanna, quando le signore mi hanno riferito questo pomeriggio come ti sei presentata a loro, mi sono tanto vergognata. Io. Pollyanna saltellava sulle punte come se non l'avesse neanche udita. Non l'hai detto! Non hai detto che non potevo sistemarti i capelli! E allora vuol dire tutto l'opposto. Come l'altro giorno con la gelatina per il signor Pendleton. Gliel'hai mandata a patto che non venisse a sapere che mi permettevi di portargliela. Ma adesso non ti muovere, corro a prendere un pettine. Pollyanna! Pollyanna! Protestò zia Polly, seguendo la ragazzina fuori dalla stanza e rincorrendola su per le scale. Ah, sei salita fin qua! Chiese Pollyanna incontrandola davanti alla porta della sua stanza. È ancora meglio così, ho qui il pettine. Ora siediti, per favore. Come sono contenta che mi permetti di pettinarti. Ma Pollyanna, io. La signorina Polly non riuscì a terminare la frase. Con sua sorpresa, senza riuscire a reagire, si trovò sulla poltroncina davanti alla specchiera, con i capelli che le scendevano giù per le spalle e con 10 piccole, gentili, solerti dita sul capo. Ma che bei capelli hai! Esclamò Pollyanna, e quanto più folti di quelli della signora Snow. Ma tu, naturalmente, ne hai bisogno di molti di più perché sei in buona salute e puoi andare in tanti posti dove la gente può ammirarteli. Mamma mia, penso a come saranno sorpresi quando potranno vederteli. Perché li hai tenuti nascosti così a lungo? Vedrai, zia Polly, sarai così carina che saranno tutti contenti di incontrarti. Pollyanna, disse imperiosa, ma scossa. La zia, che ora aveva il volto completamente coperto dai capelli sciolti. Non so proprio perché ti ho permesso di fare una cosa del genere. Ma zia Polly, pensavo che tu fossi contenta che la gente ti guardasse con piacere. Non ti piace avere cose graziose intorno a te? Io sono più felice del solito quando vedo persone carine, perché quando vedo le altre che non lo sono mi rincresce tanto per loro. Mi piace molto sistemare i capelli alle signore, continuò Pollyanna compiaciuta. Lo facevo spesso con le signore dell'assistenza, ma nessuna aveva i capelli belli come i tuoi. Solo i capelli della signora White erano simili ai tuoi e il giorno che l'ho acconciata era tanto carina. Oh, zia Polly, mi è venuta un'idea, ma è un segreto e non posso dirtelo. Adesso i tuoi capelli sono quasi sistemati. Vado via un momento e mi devi promettere, ma proprio promettere, di non muoverti e di non guardare finché non sarò di ritorno. Ricordati che hai promesso, concluse correndo fuori dalla stanza. La signorina Polly non aprì bocca, ma disse a se stessa mentalmente che avrebbe subito disfatto l'assurda opera di sua nipote e che si sarebbe pettinata al più presto come sempre. In quanto a guardare, non gliene importava niente. Ma in quel momento, senza volere, colse per un attimo la sua immagine nello specchio e quello che vide la emozionò al punto da sentirsi arrossare le guance. E più si guardava, più arrossiva. Osservò il proprio viso, non più giovane, è vero, ma illuminato dall'emozione e dalla sorpresa. Le guance erano rose, gli occhi luminosi e i capelli neri, ancora umidi dopo la passeggiata, si appoggiavano in morbide onde sulla fronte, per ricadere dietro le orecchie in fitti riccioli. Stupita e intenta com'era a osservarsi allo specchio, la signorina Polly lì per lì dimenticò la sua determinazione di ripettinarsi come al solito. Prima che potesse muoversi, si sentì legare ben stretta una benda intorno agli occhi. «Pollyanna, Pollyanna, che cosa fai?» gridò. Pollyanna ridacchiò fra sé. «Non voglio che tu lo sappia, zia Polly. Temevo che tu guardassi, così ti ho legato un fazzoletto intorno agli occhi. Stai ferma un momento, non ci vorrà più di un minuto, poi ti farò vedere. Oh, insomma, Pollyanna, disse la signorina Polly alzandosi in piedi di scatto ma incerta per via di quella benda sugli occhi. Toglimi questa cosa dagli occhi, bambina, impossibile che non sei altro. Ma che cosa stai facendo ora? Disse sentendosi qualcosa scivolare sulle spalle. Pollyanna continuava a ridacchiare, sempre più divertita. Con mani sicure drappeggiava sulle spalle della zia le pieghe di un bellissimo scialle di pizzo, un po' ingiallito dal tempo ma profumato di lavanda. Pollyanna lo aveva scoperto la settimana prima Quando Nancy aveva riordinato l'armadio della soffitta per Pollyanna, non c'era alcuna ragione per cui sua zia non dovesse essere come la signora Whitey laggiù nel West, quella volta che l'aveva aiutata a farsi elegante. Quando ebbe finito, Pollyanna osservò il suo lavoro e tutto sommato fu soddisfatta. Mancava però un ultimo tocco. Sospinse allora la zia con delicatezza verso la veranda, dove poteva con facilità cogliere una bella rosa rossa dal roseto che si trovava proprio sotto alla finestra. Pollyanna, si può sapere che cosa stai facendo? Dove mi porti? Diceva la zia cercando di opporre resistenza e di liberarsi. Pollyanna, io non. Oh, solo fino alla veranda, zia. Sarà tutto finito in meno di un minuto. Spiegava Pollyanna con il fiato un po' corto mentre staccava la rosa e lesta la infilava tra i capelli della zia. Ecco fatto, disse esultante sciogliendo il nodo del fazzoletto. Oh, zia Polly, adesso sono sicura che ti piacerà guardarti. Per un attimo la signorina Polly si osservò nello specchio, non del tutto dispiaciuta, ma improvvisamente lanciò un grido e fuggì dalla veranda. Pollyanna si girò verso la finestra per capire che cosa avesse sconvolto tanto la zia e scorse un calesse e un uomo che aveva ancora le redini in mano. Lo riconobbe subito e felice lo salutò dalla finestra. Dottor Chilton, sono qua, cercava me? Sì, volevo proprio te, rispose il dottore con un sorriso appena accennato. Ti dispiace venire un momento? Ma Pollyanna corse prima dietro alla zia, che trovò nella stanza da letto infuriata, con le guance in fiamme, intenta a togliere con rabbia gli spilli che le fissavano lo scialle sulle spalle. Pollyanna, come hai potuto agghindarmi in questo modo e poi lasciare che mi vedessero? Disse con la voce che le tremava. Pollyanna la guardò addolorata. Ma zia, eri proprio bella, veramente bella e bella? Gridò la zia, gettando lo scialle in un canto e aggredendo i capelli con le dita tremanti. Oh, ti prego, zia Polly, lasciati i capelli così. Lasciarli così, ma nemmeno un minuto di più, disse, cominciando a pettinarseli all'indietro e raccogliendoli così strettamente che nessuna onda nel ricciolo fu più visibile. Oh, che peccato. Eri così carina, mormorò Pollyanna quasi con le lacrime agli occhi mentre si avviava verso la porta. Davanti all'ingresso Pollyanna trovò il dottore, che l'aspettava pazientemente nel suo calessino. Pendleton desidera vederti, disse, e chiede se puoi andare da lui oggi. Vuoi venire? Ti porterò indietro non più tardi delle 6. Oh, ne sarei molto contenta, disse con entusiasmo Pollyanna. Vado a chiedere il permesso alla zia. Dopo qualche istante, Pollyanna era di ritorno con il cappello in mano e con un'espressione insolitamente seria. Non voleva lasciarti venire, la zia? Chiese il dottore con un po' di esitazione mentre si allontanavano. Sì, sospirò Pollyanna. Temo proprio che volesse che me ne andassi. Che te ne andassi? Chiese il dottore stupito. Pollyanna sospirò ancora. Penso che non desiderasse vedermi, mi ha detto. Sì, vai, vai via. Vorrei che fossi andata via prima. Il dottore accennò un lieve sorriso, ma i suoi occhi erano seri. Rimase silenzioso per un po'. E poi, dopo qualche esitazione, chiese: Non era forse tua zia quella che ho visto prima alla finestra della veranda con te? Pollyanna fece un respiro profondo. Sì, e il guaio sta tutto lì, suppongo. Vede, le avevo fatto indossare uno scialle molto bello che le stava tanto bene. Le avevo acconciato i capelli in modo da farle cambiare davvero aspetto. Era così bella. Non trova che fosse straordinariamente bella? Il dottore non rispose per un certo tempo. Quando si decise a parlare aveva un tono della voce così basso che Pollyanna lo udiva a fatica. Sì, Pollyanna, penso proprio che fosse molto bella. Sul serio? Sono tanto contenta, glielo dirò, disse la bambina molto compiaciuta. Con sua grande sorpresa il dottore si lasciò sfuggire un'involontaria esclamazione. No, non farlo, Pollyanna, mi vedo costretto a chiederti di non farlo. Ma perché, dottor Chilton? Perché no? Io pensavo che ne sarebbe stato contento. Potrebbe non esserlo lei, tagliò corto il dottore. Pollyanna rimase un po' pensierosa. È vero, forse non le farebbe piacere, disse Pollyanna con un sospiro. Adesso ricordo, è scappata via proprio quando ha visto lei e poi mi ha detto qualcosa riguardo al farsi vedere con quell'acconciatura. È quello che pensavo anch'io, disse il dottore. Comunque non capisco perché, disse Pollyanna. Stava così bene. Il dottore non disse nulla e non aprì più bocca finché non furono quasi arrivati davanti alla grande casa di pietra grigia, dove il signor Pendleton giaceva a letto con la gamba rotta. Capitolo 17. Proprio come in un romanzo. Quel giorno John Pendleton salutò Pollyanna con un sorriso. Ecco, Pollyanna, penso proprio che tu sia una bambina che non serba rancore, altrimenti non saresti venuta qui da me oggi. Sono stata felice di venire, signor Pendleton, e non so perché non avrei dovuto esserlo. Oh, sono stato davvero scortese con te l'altro giorno, quando tanto gentilmente mi hai portato la gelatina e soprattutto quella volta che mi hai trovato nel bosco con la gamba rotta. Temo anche di non averti ancora ringraziata per tutto quello che hai fatto. Non puoi quindi non riconoscere che dopo il trattamento che hai ricevuto in tutte e due le occasioni venendo qui hai dimostrato di saper perdonare. Pollyanna si agitò un po', sentendosi a disagio. Ma io sono stata contenta di averla trovata, cioè non voglio dire che fossi contenta della sua gamba rotta, naturalmente, si corresse in fretta Pollyanna. John Pendleton sorrise. Capisco, capisco, la tua lingua corre un po' troppo svelta certe volte, Pollyanna. Comunque ti ringrazio molto per quello che hai fatto per me. Sei stata molto efficiente quel giorno e grazie anche per la gelatina, aggiunse con un tono di voce più allegro. Le è piaciuta? Chiese Pollyanna con interesse. Moltissimo, penso che oggi non ce ne fosse più di quella che la signorina Polly non mi voleva mandare, vero? Chiese con uno strano sorriso. La sua ospite aveva un'aria molto dispiaciuta. No, signor Pendleton. Pollyanna esitò, quindi proseguì con un tono più vivace. Non avevo intenzione di essere sgarbata l'altro giorno quando ho detto che zia Polly non le aveva mandato il pollo in gelatina. Non ebbe risposta. Adesso John Pendleton non sorrideva, teneva gli occhi fissi davanti a sé, come se non vedesse quello che aveva davanti. Dopo un po' fece un profondo sospiro e guardò di nuovo Pollyanna. Quando parlò, la sua voce tradì l'abituale nervosismo. Su, su, lasciamo perdere, non ti ho mandata a chiamare perché mi trovassi del solito umore. Stai a sentire, in biblioteca, quella grande stanza dove si trova il telefono, sul ripiano più basso della libreria Vetri, nell'angolo non lontano dal camino troverai una scatola di legno intagliato. Almeno dovrebbe essere là, se quella benedetta donna non l'ha messa da qualche altra parte. Ti prego di portarmela, è pesante, ma non penso sia troppo pesante per te. Oh, io sono molto forte, dichiarò Pollyanna allegramente, balzando in piedi, e dopo qualche minuto era di ritorno con la scatola. Quella che seguì fu una mezz'ora meravigliosa per Pollyanna. La scatola era piena di tesori. Le curiosità che John Pendleton aveva collezionato in tanti anni di viaggi, e a ognuno era legata una storia divertente, sia che fossero i pezzi degli scacchi cinesi, finemente intagliati, o un piccolo idolo di giada proveniente dall'India. Dopo aver ascoltato la storia dell'idolo di giada, Pollyanna mormorò: Beh, penso che sarebbe meglio andare a prendere un bambino in India e allevarlo, uno al quale non avessero messo ancora in testa che Dio si trova in quel piccolo gingillo, piuttosto che prendere Jimmy Bean. Un bambino che crede che Dio è in cielo, anche se non posso fare a meno di desiderare che si prendessero anche Jimmy, oltre ai bambini indiani. Non sembrava che John Pendleton la stesse ascoltando. Stava di nuovo guardando davanti a sé, gli occhi fissi nel vuoto. Ma di lì a poco si scosse, riprendendo un altro oggetto curioso dalla scatola dei tesori. La visita fu senz'altro molto piacevole, ma verso la conclusione Pollyanna si rese conto che stavano parlando non soltanto degli strani oggetti contenuti nella scatola, ma anche di cose che la riguardavano, di lei stessa, di Nancy, di zia Polly e della sua vita in genere. Avevano parlato perfino della sua casa e degli anni trascorsi nel lontano ovest. Quando giunse per lei il momento di andarsene, il signor Pendleton, con un tono di voce che il severo signor Pendleton non aveva mai usato prima, disse: Piccola cara, desidero che tu venga spesso a trovarmi. Sono tanto solo e ho bisogno di te. Ma c'è anche un altro motivo e voglio che tu lo sappia. Non appena sono venuto a sapere chi eri, sulle prime ho deciso di non farti più venire qui. Vedi, mi ricordavi cose che per anni avevo cercato di dimenticare, così mi sono detto che non avrei più desiderato vederti. E ogni volta che il dottor Chilton mi chiedeva se doveva condurti qui da me, gli rispondevo di no. Ma ho cominciato a desiderare di vederti perché il fatto di non vederti mi faceva pensare molto di più a quelle cose che desideravo invece dimenticare, così ho deciso di chiederti di venire ancora a trovarmi. Lo farai? Ma certo, signor Pendleton, disse Pollyanna tutto d'un fiato, con gli occhi che le brillavano per la simpatia che quell'uomo dal volto triste le suscitava. Sarò felice di venire ancora. Grazie. disse piano John Pendleton. Quella sera dopo cena, sotto il portico, Pollyanna raccontò a Nancy la sua visita al signor Pendleton, le cose che le aveva mostrato e ciò che le aveva raccontato. È davvero incredibile, disse Nancy, che ti abbia fatto vedere tutte quelle cose e te ne abbia parlato tanto. Proprio lui, che è sempre così burbero da non voler parlare mai con nessuno, proprio con nessuno. Ma non è affatto burbero, Nancy. Sembra, ma non lo è, disse Pollyanna convinta. E non capisco proprio perché tutti pensino male di lui. Se lo conoscessero non direbbero quello che dicono. Anche zia Polly non è simpatico. Pensa che non voleva che gli portassi la gelatina. E si è preoccupata perfino che lui non pensasse che gliela mandava lei. Quello che mi colpisce è quanto sia gentile con te, Pollyanna. Non intendo offenderti, ma non è il tipo d'uomo che si trova bene con i bambini. Pollyanna sorrise senza risentirsi. Oh, ma non è così, Nancy, disse Pollyanna, anche se devo riconoscere che prima non era così. Oggi mi ha detto che qualche giorno fa non voleva più vedermi, perché gli ricordavo cose che voleva dimenticare. Ma dopo, che cosa ti ha detto? Intervenne Nancy, punta dalla curiosità. Ha detto che gli ricordavi cose che voleva dimenticare? Sì, ma dopo? E che cosa gli ricordavi? Chiese Nancy sempre più incuriosita. Oh, non me lo ha detto, ha solo detto che gli ricordavo qualcosa. È proprio un mistero, sentenziò Nancy. È per questo motivo che ti ha presa tanto in simpatia, Pollyanna. È proprio come i misteri raccontati nei libri. Io ne ho letti molti, e in tutti c'è un mistero come questo. Che bello! È come leggere un libro vivente, che non so ancora come andrà a finire. Ma ora raccontami tutto, Pollyanna, proprio tutto! Non c'è da stupirsi che ti abbia presa in simpatia, non c'è da stupirsi. Oh, ma non aveva nessuna simpatia per me, protestò Pollyanna. Nessuna simpatia finché non gli ho parlato. Non sapeva nemmeno chi fossi fino a quando non gli ho portato la gelatina di pollo e non gli ho fatto capire che non era zia Polly che gliela mandava, e a quel punto Nancy balzò in piedi e battendo le mani disse: Oh, Pollyanna, ci sono! Ci sono! E rimettendosi a sedere vicino a Pollyanna, continuò: E ora dimmi, ma rispondimi senza tanti giri di parole, disse eccitata. È stato quando ha saputo che eri nipote della signorina Polly che ha detto di non volerti più vedere, vero? Certo, gliel'avevo detto l'ultima volta e lui oggi me lo ha raccontato. Ho capito, disse Nancy in tono di trionfo. E hai detto che la signorina Polly non voleva apparire come chi mandava la gelatina, non è così? È così? E tu gli hai detto che non era lei a mandarla? Ma sì, io. Allora lui ha iniziato a comportarsi in modo strano e a commuoversi dopo che ha saputo che eri la nipote della signorina Polly, non è così? Ma sì, si è certo comportato un po' stranamente riguardo a tutta la faccenda della gelatina, ammise Pollyanna facendosi pensierosa. Nancy fece un lungo sospiro. Questa volta non ho dubbi, ascolta. Il signor John Pendleton è stato innamorato della signorina Polly Harrington, annunciò Nancy solennemente, ma con uno sguardo malizioso. Ma com'è possibile, Nancy? Non può essere. Zia Polly non lo può soffrire, obiettò Pollyanna. Nancy le diede un'occhiata di scherno. Certo che non lo può soffrire, è proprio questo il punto. Pollyanna continuava a essere incredula, mentre Nancy, dopo un altro profondo sospiro, si dispose a raccontare la storia. Le cose stanno così. Poco prima che tu arrivassi, Tom mi ha confidato che la signorina Polly era stata fidanzata. Io non gli ho creduto, non potevo credergli, figurarsi, un fidanzato lei. Ma Tom insisteva che era vero, diceva anche che quell'uomo viveva proprio da queste parti. Ora è chiaro e sappiamo chi è. Non può essere che il signor John Pendleton. Non c'è forse un mistero nella sua vita? Non si è rinchiuso in quella grande casa, tutto solo, senza mai voler vedere nessuno? Non si è comportato in modo strano quando ha saputo che eri la nipote della signorina Polly? E non ti ha confidato ora che gli ricordavi qualcosa che voleva invece dimenticare? Come se non si capisse che si tratta proprio della signorina Polly? Non è stata lei a dire che non voleva che si pensasse che era lei a mandare quella benedetta gelatina? Pollyanna, è tutto chiaro come il sole. Oh! Sospirò Pollyanna con gli occhi spalancati dallo stupore. Ma Nancy, penso che se si volessero bene non sarebbero stati così tutti soli per tanti anni. Avrebbero voluto incontrarsi almeno qualche volta. Nancy ridacchiò con aria di superiorità e disse: Mi sa che non te ne intendi molto di innamorati, Pollyanna, devi ancora crescere. Ma semmai c'è qualcuno al mondo che dovrebbe fare il gioco, sono proprio quei due. Lui non è forse sempre imbronciato e lei acida come un limone? A quel punto Nancy si fermò di colpo, ricordando appena in tempo con chi stava parlando e di chi. Poi però aggiunse: "Io non dico niente, Pollyanna, ma sarebbe meraviglioso se tu riuscissi a convincerli a fare il tuo gioco e finissero per riconciliarsi. Resterebbero tutti stupefatti se vedessero la signorina Polly e il signor Pendleton insieme. Temo però che sia difficile, davvero difficile." Pollyanna non disse nulla, ma quando poco più tardi entrò in casa, si fece pensierosa, molto pensierosa.